Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Mattina del 29 gennaio 1979. Milano è avvolta da una leggera nebbiolina. Fa freddo e la temperatura è poco sopra 0 centigradi. Il giudice Emilio Alessandrini esce dalla sua abitazione. Tiene per mano il figlio Marco. Cammina a piedi per 300 metri e raggiunge la scuola elementare di via Colletta. Un bacio, una carezza. Poi vede il bimbo salire le scale e allontanarsi. Il giudice Alessandrini non ha protezioni da parte dello Stato. Non chiede scorte. Resta solo con le sue idee. Lui cammina a testa bassa verso la sua abitazione e poi si infila nell'automobile. 5 persone attendono il magistrato all'incrocio tra Viale Umbria e Via Muratori a Milano. Uno dei killer spacca il vetro della vettura con il calcio della pistola. Il giudice viene raggiunto da 8 colpi di arma da fuoco. Muore all'istante. Il comando si eclissa nel traffico cittadino dopo aver lanciato alcuni fumogeni. Poco dopo ai centralini dei quotidiani giunge la rivendicazione dell'organizzazione Prima Linea. Oggi, 29 gennaio 1979, alle ore 8:30, il gruppo di fuoco romano Tognini Valerio dell'organizzazione comunista Prima Linea ha giustiziato il sostituto procuratore della Repubblica Emilio Alessandrini. Era una delle figure centrali che il comando capitalistico usa per rifondarsi come macchina militare o giudiziaria efficiente e come controllore dei comportamenti sociali e proletari sui quali intervenire quando la lotta operaia e proletaria si determina come antagonista ed eversiva. Milano è sotto shock per l'uccisione del magistrato Emilio Alessandrini, freddato stamane a colpi di pistola da un comando di Prima Linea. Il dottor Alessandrini è stato ucciso dopo le 8 quando stava tornando a casa al volante della propria auto. Aveva accompagnato suo figlio Marco di 8 anni a scuola. Emilio Alessandrini è uno dei magistrati più importanti a quel tempo nel nostro paese. Nasce a Penne, in provincia di Pescara, il 30 agosto 1942. Si laurea in giurisprudenza nel 1964. Inizia la carriera in magistratura svolgendo le funzioni di uditore giudiziario presso il Tribunale di Bologna. Nel 1968 diventa sostituto procuratore della Repubblica di Milano. Si occupa delle indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1972, con i colleghi Fiasconaro e D'Ambrosio, segue la pista della destra eversiva. Smaschera i depistaggi degli uomini del SID, il servizio segreto di allora. Conclusa l'istruttoria sulla strage di Piazza Fontana, Alessandrini continua ad interessarsi di eversione, in particolare del terrorismo rosso. Alessandrini lavora nella commissione consultiva istituita dal Ministero di Grazia e Giustizia per la riforma del codice penale. Alessandrini entra nel mirino di Prima Linea per la sua attività di riformista, lo scrupolo professionale e l'impegno civile. Sul terrorismo rosso, Emilio Alessandrini diventa il punto di riferimento al Tribunale di Milano. È sua l'idea di creare un pool di magistrati con l'intento di coordinare tra loro il lavoro delle varie procure. Il 13 settembre 1978, nell'appartamento occupato da Corrado Alunni in via Negroli a Milano, viene trovata una scheda e una foto di Emilio Alessandrini. Il giovane magistrato inizia ad avere paura e ai suoi amici confida di temere che quella foto provenga dai servizi segreti. Alessandrini, infatti, parallelamente alle inchieste sul terrorismo, si occupa anche degli scandali finanziari del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e dei legami tra i servizi segreti e ambienti eversivi di destra. Scrive il 30 gennaio 1979, giorno dopo l'assassinio di Emilio Alessandrini, l'editorialista e inviato del Corriere della Sera, Walter Tobagi. Sarà per quella faccia mite da primo della classe che ci lascia copiare i compiti. Sarà per il rigore che dimostra nelle inchieste.

Ma chi sono gli assassini di Emilio Alessandrini? Marco Donat Catena, un giovane inquieto della borghesia torinese, è figlio di Carlo Donat Catena, uno degli uomini più potenti della Democrazia Cristiana, corrente di sinistra. Marco Donat Catena è un attivista di lotta continua. È un giovane ribelle, conduce una vita precaria, inquieta, nonostante la sicurezza economica. Nell'autunno del 1976, dopo la sconfitta alle elezioni estive, Lotta Continua si scioglie. La parte più dura del servizio d'ordine sceglie la lotta armata. 29 novembre 1976. Un gruppo armato, tra cui Roberto Sandalo e Marco Donat Catena, assalta l'associazione dirigenti Fiat di Torino. L'azione viene rivendicata come prima linea. Roberto Sandalo, militante di prima linea, poi pentito, ricorda così l'amico Marco Donat Catena. Il ricordo, il primo impatto di quando conobbi Marco Donat Catena fu quello di un uomo triste, di un ragazzo triste, sicuramente più grande di me. Non parlava bene di suo padre, non ne parlava bene, diciamo, in termini politici, ecco. Personalmente non diceva nulla, ecco, io non ho mai avuto modo di capire se ci fosse stato arte o uno spirito di concorrenza. Roberto Sandalo, Sergio Segio, Michele Viscati, Marco Donat Catena. Sono in quel periodo i capi militari di prima linea, protagonisti di una lunghissima scia di sangue. Quando si costituì il primo gruppo di fuoco dell'organizzazione prima linea, si capì che si stava veramente saltando il fosso. Io ho capito, anche Marco, molto più determinato di me, che si stava imboccando la strada del non ritorno. I militanti di prima linea vivevano una vita sostanzialmente normale, giusto dimostrando di non essere l'ultimo fricchettone di piazza del movimento, quindi no a capelli troppo lunghi, un abbigliamento da impiegato, da studente modello, quindi la cravatta spesso e volentieri con la giacca. Andare al cinema, perché no, a partecipare anche a qualche momento di assemblea pubblica. Il 29 gennaio del 1979, prima linea ucciderà a Milano il sostituto procuratore Emilio Alessandrini. Del comando fanno parte, tra gli altri, Marco Donat Catena, Sergio Segio, Bruno Rossi Palombi. Gli investigatori accertano che quella mattina Sergio Segio spacca il vetro dell'auto di Emilio Alessandrini e colpisce il giudice al capo con un colpo di pistola. Nel maggio del 1980 Roberto Sandalo rivela ai magistrati inquirenti i nomi dei membri del comando. Il processo si apre nel maggio del 1983 e si conclude nel dicembre di quell'anno. La seconda corte d'assise di Torino, dopo 10 giorni di camera di consiglio, condanna Sergio Segio all'ergastolo e Bruno Rossi Palombi a 24 anni di reclusione. Ai dissociati della lotta armata, come Marco Donat Catena, spettano pene minori. La storia postuma di prima linea si snoda attraverso un fenomeno unico nel panorama della lotta armata di sinistra, la dissociazione. L'avvocato Tommaso Mancini ha difeso molti ex militanti di quell'organizzazione, quelli che decisero di abbandonare il terrorismo senza pentirsi. Giovani come Sergio Segio, uno dei killer di Emilio Alessandrini. Fu un giovane di prima linea che si chiamava Roberto Vitelli, e pose ai giudici il problema del valore della dissociazione in un processo per omicidio presso la Corte d'Assise di Viterbo. La legge sulla dissociazione fu approvata dal Parlamento ed entrò in vigore praticamente il 18 febbraio del 1987, la numero 34. questa legge sulla dissociazione prevedeva una condotta da parte dell'imputato o del condannato completamente diversa da quella che era l'unica condotta, diciamo, ipotizzata dal codice e dalle leggi speciali, che era quella della collaborazione. La collaborazione, come tutti sappiamo, era il fenomeno che poi si chiamava, insomma, più diffusamente pentitismo, era quella condotta attraverso la quale il soggetto ammetteva le proprie responsabilità e chiamava in causa quelli che erano i concorrenti nel reato. Quindi ovviamente non c'era collaborazione, non c'era pentitismo se non c'era una chiamata di correo, diciamo, nello stesso processo, nello stesso reato o comunque nella stessa vicenda. A poco nelle carceri, specialmente nell'area omogenea di Rebibbia, si sviluppò un grosso, una grossa tensione politica di revisione delle proprie scelte. E quindi questo processo di revisione poi sfociò, culminò con quello che oggi noi chiamiamo dissociazione e che la legge del numero 34 chiamò dissociazione, che era quello di assumere le proprie responsabilità, di assumersi le proprie responsabilità senza chiamare in causa assolutamente nessuno. Quindi è un'assunzione di responsabilità, ma non una chiamata di correo. Prima c'era il pentitismo, era il prezzo che lo Stato pagava per la collaborazione, non c'è dubbio. Quindi grandi sconti di pena insomma, è quello che poi sappiamo essere stata la stagione del pentitismo. Il primo pentito, devo dire, forse con una certa rilevanza processuale, fu, non so se si ricordi ancora, un certo Fioroni che, diciamo, ricostruì determinate vicende del processo che andava sotto il nome di 7 aprile. Poi a poco ci fu Pesci per le Brigate Rosse, insomma una serie di personaggi che collaborarono con la giustizia ed ebbero anche dei notevoli sconti di pena. Cosa resta oggi della figura di Emilio Alessandrini? Quale eredità lascia il magistrato a distanza di molti anni dalla sua uccisione? Il figlio Marco Alessandrini conserva ricordi allegri e spensierati. Io frequentavo le elementari e c'era un ragazzo un poco più grande che si divertiva ad annunciare una bomba e quindi venivano sfollati tutti gli alunni, cosa bellissima per noi. Mi ricordo che mio padre si occupò di questa cosa e come Nembo Kid risolse il tutto scoprendo questo telefonista anche un po' maldestro, per la verità. Quindi questa, se vogliamo, è l'impresa più eclatante di cui abbia memoria. Nell'intimità domestica non ho mai avuto, diciamo, la sensazione che mio padre facesse chissà quali cose eclatanti, cioè era una routine familiare assolutamente tranquilla, in quanto il lavoro restava fuori dalla porta di casa. Non ho mai chiamato mio padre papà, l'ho chiamato sempre Emilio, testimonianza di un rapporto molto speciale che c'era tra noi, di amicizia, di complicità, di scherzi. Mi ricordo che lui, quando tornava a casa la sera tardi, si metteva a leggere, questo era uno scherzo, una specie di sketch che facevamo fra di noi, leggeva il Corriere della Sera, il Corrierone, con queste pagine come lenzuoli, e io, così facendo finta di nulla, mi mettevo sotto la poltrona e glielo, diciamo, spiaccicavo sulla faccia. Non so se mia madre abbia percepito in maniera più netta di un bambino quale io ero, la situazione più o meno pericolosa in cui si trovava mio padre, tuttavia queste sensazioni sono, perlomeno mi sono state risparmiate, cioè io sono sempre stato un bambino molto sereno, non avevo assolutamente idea di quello che poi sarebbe successo, né pensavo potesse minimamente accadere. Ricordo che spesso andavamo allo stadio, ricordo un'immagine di un Milan-Inter poco prima della scomparsa di mio padre, è strana la memoria, ricordo di un giocatore del Milan completamente biondo, questo che la maglia rosso-nera e i capelli biondi, insomma, un bel ricordo di queste giornate allo stadio con mio padre. Io non avrei mai pensato che questo fosse quello che mi resta di mio padre. La memoria di Emilio Alessandrini non è stata cancellata. Vive ancora oggi. A lui sono state dedicate le piazze, vie, parchi del nostro paese. La sua memoria è associata a quella di molti magistrati e giudici uccisi dal terrorismo politico, come ha ricordato l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel giorno dell'inaugurazione della sala principale del Palazzo del Consiglio Superiore della Magistratura. Quello di Ciampi è il ricordo più efficace per il sacrificio di umili servi dello Stato che lo Stato non ha saputo difendere. Abbiamo vissuto quegli anni che hanno visto il sacrificio di tanti magistrati, ogni nome, ogni luogo, ogni data hanno scandito un momento drammatico della nostra vita, della nostra patria. E questo l'eroismo dobbiamo a quelle 26 vittime, a quei 26 martiri, se la nostra Repubblica è riuscita a superare momenti che noi che l'abbiamo vissuti con loro ci avevano in certi passaggi indotti alla disperazione. La magistratura è stata un baluardo essenziale, fondamentale. Chi l'ha colpita in maniera così drammatica e così mirata sapeva che colpiva quello che costituiva uno dei presidi fondamentali della nostra libertà e della nostra democrazia. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dviacchessi@radio24.it.